dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. If I'm the BG. La musica è soltanto per svegliarci un po'. Che no? Mangiata, che mangiata, sì, sì. Che vabbè, mangiata, sì, adesso, guarda una roba. Sì. È già mangiata a mezzogiorno, a adesso sì. Rimangi nuovo anche questa no, sera. No, non cioè, ce la fai. Sì, vabbè, non ce la fai. Dopo il pranzo di Pasqua non ce l'agnello la ringrazia, comunque, voglio dire, certo. E anche gli animalisti, sì, certo. Sì, sì, Luca Gattuso è lui che ha mangiato l'agnello, lo dico. Sergio Ferrentino è lui che non l'ha mangiato, esatto, l'agnello. Io non ho mangiato l'agnello, però non perdiamoci in chiacchiere. Abbiamo questa oretta da passare insieme, sì. Soprattutto per ci rivolgiamo a quelli traditi dalla fretta, quelli che sono arrivati in ritardo ad ascoltare Dai e Vai, quelli che non sanno che cos'è Dai e Vai, quelli che hanno detto, oh, ma c'è Dai e Vai? No, ecco, allora tu soltanto loro dedichiamo questa trasmissione, una trasmissione che farà dei passi indietro, vi farà riascoltare anche delle interviste o un qualcosa, non è proprio il meglio del meglio, no, ci sono delle no. cose ancora migliori e le altre, e quelle più migliori arriveranno dopo, ho detto più migliori, sì, sì lo so, sì. Ti fa schifo, no. Però ti ricordi quando c'era lo sci di fondo, che c'erano i mondiali in Val di Fiemme? No, non te lo ricordi. Non me lo ricordo. Valerio Checchi. Ah, no, sì, l'ho sentito su Radio 24. Esatto, Dai e Vai, 50 chilometri sugli sci di fondo. Pensa quanto ci ha messo, 50 chilometri. Ma chi? Valerio Checchi. Ce l'abbiamo già qua. Sì, è qua, arriva. L'abbiamo intervistato subito dopo. Beh, proprio subito no, però l'abbiamo dopo la doccia. Buonasera a tutti. 50 chilometri di fondo. Io non avrei neanche il fiato per dire buonasera, cioè questo per dare un'idea, come siamo conciati noi. Ho risparmiato le forze apposta. Ah, ecco perché sei arrivato. Ecco perché sei arrivato. Quanto sei arrivato? 35. Ah, vabbè, allora va bene, hai risparmiato tanto di forze in questo caso. No, e diciamo, tu ti aspettavi di arrivare nei primi 40 o nei primi 30? Tanto per capirci il risultato, se ti soddisfa o meno. Se sincero, nei primi 15. Ah, però bene. È uscito fuori una mattanza praticamente. Perché? Che è successo? Che è successo? No, è una gara. Forse credo sia stata la 50 più dura degli ultimi 10 anni, sia per le condizioni della neve, sia per il clima, sia per la pista. Era troppo caldo? Caldissimo, neve bagnata e una pista con un dislivello abbastanza assurdo. E diciamo, ho scelto la 50 sbagliata. Ah, ho capito. Ma tu adesso ti stai comportando un po' come Mazzari quando ce l'ha col campo di Napoli, quando perde? Ma, oddio, no. No, però, perché Valerio, scusa una cosa, ma anche gli altri c'avevano la stessa neve. Sì, è quello. Uno cerca sempre di aggrapparsi a qualche scusante, ma purtroppo diciamo la realtà è questa. E, sì, era uguale per tutti le condizioni, certo. Ha fatto la differenza gli atleti un po' più in forma. Io non ero nel migliore delle condizioni fisiche, però ho tenuto duro, ho stretto i denti e alla fine sono arrivato all'arrivo. Purtroppo non potrò gioire come i primi classificati, però diciamo il morale, anche se un po' sotto le scarpe, sono sempre il motivo. No, per... sei depresso. No, Valerio, non fare così, No, Valerio, non guarda che mi preoccupo, Comportati. Chiamo dal terzo piano di un albergo. No, allora, Valerio, no, l'inquilino del terzo piano, no, per favore, comportati bene perché non è il caso, caso qua. Però devo dire, ho provato subito un po' tirato sul morale appena finito la gara, invece di andare dritto nel motorhome dell'Italia, come hanno fatto tanti atleti, diciamo, sono rimasto un po' nel pubblico, sono passato un po' in mezzo alla folla, purtroppo ogni passaggio era una birra e... Ah, ecco. Ah, ho capito. Quindi adesso hai recuperato un po', insomma, adesso sì, ho recuperato e... Sì, diciamo sì. Che... Sì. Senti, questa si chiama spedizione, anche se siete andate lì dietro l'angolo in Val di Fiemme, dello sci nordico italiano, diciamo, non un grandissimo successo quest'anno. Purtroppo no. Vorrei dirvi diversamente, ma purtroppo la realtà è questa. Come mai? Passiamo un po' periodo, tante volte quando ci sono gli anni dove si vince tutto e ci sono grandi campioni, c'è sempre qualche anno un po' di pausa. Però di solito quando uno c'è i campionati mondiali in Italia, a casa, tutti a casa, via, inutile star lì, a casa spazio ai giovani, via, a casa, dai. Cioè, no, scherzavo, però sì, io ho fatto un ragionamento con un giornalista l'altro giorno, ho detto sì, noi abbiamo vinto il mondiale di calcio nell'82 e poi l'abbiamo vinto nel 2006, non è che per 15 anni abbiamo, certo, parato a zero sul calcio italiano, no. Adesso lo scitifondo per questi 3-4 anni è stato così. Che tra l'altro ha fatto delle figure barbine, tra l'altro, il calcio italiano, in quegli anni lì, voglio dire, in mezzo. Sì, appunto. Ecco. Ecco, vabbè, ma adesso secondo te che cosa bisogna fare per recuperare, cioè, questa figura, questa spedizione, insomma? Cosa bisogna rifondare? Ma no, gli elementi che sono, partendo dalla direzione agonistica e tutti i tecnici, diciamo, sono gente valida. D'altronde è come adesso, è facile, è come sparare sulla Croce Rossa. Adesso siamo deboli e giustamente giornalisti e gli diretti avversari, quelli che puntano alla poltrona, è il momento più facile per agire, per prendere il potere. Noi siamo una squadra, ci dobbiamo difendere, purtroppo sono i risultati che parlano, perciò l'unica nostra difesa è non lo so neanche io. Però sai che mi piace, perché fino adesso andavi tranquillo come se fossimo la domenica sportiva. Cioè, ci aspettavamo un finale di quelli che spaccava, invece. Avrei dovuto scriverla, però. Però ti è venuta bene lo stesso, e diciamo così, che la birra ti ha fatto al 90%. Ti ha fatto bucare il finale, però, sì, che il finale è sempre proprio faccio il filo del discorso. Scherzi a parte, ci risolleveremo perché abbiamo i numeri, certo. E sappiamo che ce la possiamo fare. Sì, vabbè, quella è quella di riserva che usiamo sempre come frase. Senti, Valerio, però questa storia, che voglio dire, si può vincere, però c'è questo piccolo particolare. Tu vieni dalla provincia di Roma? Sì. Cioè, dove ti alleni? Questi sono i misteri della vita. Nell'anulare, no? Non ho capito. Cioè, no. È come a un bambino quando si chiede, non so, la radice quadrata dei 1200. Il bambino? Di 2 anni, non lo sa. Certo. No, se diciamo che vicino a casa mia c'è gli Appennini razziali, il Monti Simbruini, dove c'è una bellissima pista di fondo. Sì. Siamo un po' carenti di piste da discesa, però diciamo il fondo è ben organizzato e sono cresciuto lì. Poi è normale che quando sono diventato adulto e agonista, diciamo, mi sono trasferito un po'. L'inverno mi trasferisco dove? Nel nord Italia. Beh, ogni 2-3 anni cambio posto, perché E dove ti sei allenato quest'ultima volta? Quest'ultima volta un po' dappertutto, perché di solito ero quando ho fatto 9 anni nella Guardia di Finanza ero a Predazzo, proprio nella sede qui dove sono svolti i mondiali. Certo. Poi sono 5 anni che ho fatto il passaggio al Corpo Forestale dello Stato e quindi? Per questo motivo ho fatto 2 anni a Bormio, Santa Caterina, e gli ultimi 2 anni a Dobbiaco, in Pusteria. Diciamo, certo. Scelgo sempre dei posti. Belli, le valli belle. Si mangia bene, di la verità, si mangia bene. Diciamo. Vabbè, sono cose che... No, l'unica cosa è che non ho imparato il tedesco, ma non è che si può aver tutto. Non è che ci tengo più di tanto. Senti, cos'è sta storia che ti ritiri? Non ho capito. Cioè, no, di che ha capito male il giornalista, dai. No, diciamo, smentisci. Dopo gara a caldo, quando c'era un po' la delusione, no, oggi quella di sabato, perché anche sabato non era andata proprio così bene, un giornalista dice: qual è il tuo futuro? La prima reazione che ho detto, non avevo voglia di parlare, devo essere sincero, che ho detto ormai ho dato a questo sport e sono andato via. Poi è uscita fuori, giustamente anche lui, una lettera che dice così, ha dato per scontato, diciamo, il mio ritiro. Però no, perché anche quest'altro anno c'è l'anno olimpico. Infatti c'è Sochi, tra l'altro quindi scusa, tu ci autorizzi a dare questa, cioè a lanciare l'agenzia che dice, Valerio, che c'è chi col che cavolo chi? Che mi ritiro col cavolo che mi ritiro, e anche perché c'è un motivo in più, perché non so che magname, te la dico proprio così. Non so che magname tecnico, i fondisti sono così. No, ci credo, parlando seriamente, in qualche occasione quest'anno, anche se non è stato a livello continuo grandi risultati, però in qualche occasione sono stato al vertice sia mondiale che a livello italiano, perciò qualche cartuccia ancora c'è, bisogna dosarla bene, perciò un anno olimpico, è da andare a casa adesso, ragionare su tutto, capire dove si è sbagliati. Sì, e poi anche la valle, scegliere una valle migliore magari. Infatti cambio quest'anno, proprio per una questione, non sono scaramanti, ma quest'anno cambio. Auronzo, vai ad Auronzo che c'è lì il centro da forestale. Sì, sì, anche quello è vero, però le caserme... Sì, però meglio Pusteria secondo me. C'è tempo per andare in caserma quando finisco. Va bene, senti Valerio, noi ti ringraziamo moltissimo. No, oh, non farci scherzi, adesso non è che ti telefono un altro giornalista e dice no mi ritiro, questa è l'intervista ufficiale. Questa è ufficiale, noi ti lanciamo, stai attento. Sì, dichiaro apertamente il mio non ritiro. Checchi. Non si ritira, neanche noi tra l'altro, ci ritiriamo. No. Però io sono già affaticato dopo 50 km, sì, c'è una fatica pazzesca. Sì, ma le ha fatti lui, adesso non drammatizziamo. Tu hai ascoltato per 50 minuti, no, neanche per 50 secondi. Poi ti sei abbioccato per subito. Osmosi. No, per ti osmosi. Sei abbioccato perché l'agnello di prima ti è rimasto un attimo lì. Sta un po' ammorbando. C'è un pochettino di quegli effervescenti che ti aiutano a digerire. Ma no, assolutamente. Come no? Adesso c'è durante il pranzo. No, te sei fatto fuori oggi a pranzo, dopo pranzo. Stasera diventa già più problematico, però adesso a questo punto devi concentrarti un attimo, anzi andiamo di là, ti do un'altra pastiglia, nel frattempo ci prechiamo anche un po' di traffico, va? Va bene. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, alle 22.15 minuti sull'Autosole ci sono 2 km di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in carreggiata nord verso Milano. Sul resto dei percorsi, sul resto della rete autostradale, il traffico al momento è scorrevole, non ci sono particolari disagi. Alle 22 sono tornati a circolare i mezzi pesanti sulle autostrade. Ricordiamo che domani ci sarà il nuovo stop dalle 8 alle 22 per agevolare gli spostamenti, soprattutto i rientri dopo il ponte festivo, e poi martedì mattina ancora agevolazioni, stop ai mezzi pesanti dalle 8 alle 14. Per quanto riguarda le condizioni meteo, piogge sparse sulle regioni centrali, a nord-est e in Lombardia intorno a Milano, vento forte sul versante tirrenico tra Toscana, Lazio ed Abruzzo e tra Molise e Puglia, si raccomanda quindi la massima prudenza. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Andate piano, andate piano. C'è la neve. No, ma dico, ah, ma no, scusa. Proprio in assoluto. Qua c'è la neve, dai. Sì, per gli usci, per adesso, sciare. Sta calmo, non voglio dire, tranquillo, non mettere subito agitazione inutilmente. No, torniamo in un momento epico di Dai e Vai, un momento che ci ricorderemo sempre. Sì. Noi normalmente abbiamo dei mister che nella nostra trasmissione, ospiti di Dai Vai di Radio 24. Bene, in questo caso abbiamo avuto un personaggio che ha incarnato due figure, il mister, cioè Olivieri, il mister Renzaccio. E Renzaccio, direi, mi hai bruciato la battuta, ti ringrazio, voglio dire, lo rifaccio di nuovo la battuta. Era il mister Olivieri, che è un allenatore, e il mister Olivieri, che è stato trombato da poco alle elezioni. Ed è lì che sta. Ha due ruoli in quel caso. Allora scusa, tre, perché è anche il capo dei mister italiani, perché è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Il capo dei mister, però è stato trombato alle elezioni. Quindi è tornato di nuovo a fare il capo degli allenatori. Questo è il passaggio, questo elemento. Allora, bene, noi l'abbiamo intervistato. Non era così allegro, era così, si è un po' sciolto. Poi anche qualche episodio ci ha raccontato, qualche critica nei confronti dei nuovi allenatori, ma adesso lo sentiamo. Ma non proprio degli episodi quelli. Però ci ha detto delle cose. Una intervista comunque piacevole, lunga, anzi, non dovremmo dirlo noi, dovreste dirlo voi, però dovete star lì in questo momento e ascoltarla fino in fondo. Arriva, mister Olivieri, a lei. Lei con che criterio sceglie la partita da seguire? Ma io ne devo vedere un po', per cui non è che guardo i gol, ma seguo 20 minuti, perché ne devo guardare un po' tutte. Quindi per ragioni di lavoro. Certo, via. Sì, sì. Anche noi diciamo così quando guardiamo il calcio, insomma, diciamo, devo andare a lavorare e guardiamo le partite, insomma, un po' questo. Sono cose che succedono, devo dire, c'è anche questo tipo di lavoro. Senta, noi ogni settimana sentiamo un allenatore di Serie A, c'è un po' questo dibattito fra gli allenatori, volevamo avere anche la sua posizione su i giovani che non fanno la gavetta e poi arrivano subito alla panchina di Serie A. Ma è un discorso degli ultimi anni, prima c'era, prima per arrivare in Serie A era un percorso anche abbastanza lungo, c'era la gavetta così, però io credo che in un modo o in un altro la gavetta vada fatta. È un percorso che è anche accelerato i corsi allenatori, io credo che bisognerà rallentare un po' la carriera degli allenatori, soprattutto per acquisire il titolo che gli consente di allenare in Serie A. Ah, quindi rallentarla come? È un po' troppo veloce, perché nel giro di un anno dei tre, si riesce oggi è possibile prendere i tre gradi che ci vogliono per allenare in Serie A. Il famoso patentino, per capirci. Sì, il famoso patentino, per cui noi pensiamo che si debba passare anche attraverso un po' di tirocinio, di pratica sul campo. Sì, invecchiare un po', insomma, cioè prendere un po' di saggezza calcistica, intendo dire. Cioè, non volevamo entrare nel dibattito giovani vecchi anziani, queste robe qua, hai detto, no, francamente diciamo fare esperienza, sì, facciamo un po' di esperienza, ci vuole anche per trovare il Parlamento, anche il Senato, dove voglio dire, per trovare, cioè. No, però il meccanismo è che in realtà, diciamo, Stramaccioni dà un esempio classico, non basta essere giovane per poi dopo avere un calcio giovane, o comunque no. Giovane calcisticamente, le spalle ha una carriera di settore giovanile, quindi arrivare subito a una società come l'Inter è un percorso molto veloce, ha dimostrato di saperci stare, però uno si trova di fronte, bisogna vedere anche la carriera da calciatore che uno ha alle spalle, perché è anche questo, uno si trova di fronte magari a situazioni alle quali non avrebbe pensato neanche mai di trovarci, al discorso di Cassano. Ma a parte Stramaccioni, per esempio, c'è un caso, devo dire che io ritengo un grandissimo, sarà sicuramente un grandissimo allenatore, forse lo è già sicuramente, cioè Donadoni, che di botto si è trovato a dirigere la nazionale, no? Grandissimo calciatore, tutto quello che è, però non è andato anche lì un po' troppo veloce? Vabbè, no, era andato, intanto l'età, non era più giovanissimo, poi aveva fatto esperienza in Serie A, è stato un grande calciatore, una carriera anche abbastanza lunga. Sì, certo, però gestire una nazionale, e in particolare la nazionale italiana, forse un po' di pressione, un po' di situazioni di questo genere. Sì, io credo che per fare l'allenatore a certi livelli ci voglia saper reggere alle pressioni, conoscere l'ambiente, avere conoscenze tecniche, capacità di gestione dei giocatori, capacità di rapporto con l'ambiente, che vuol dire tifoseria, società, mezzi di informazione, è un discorso molto complesso per il quale ci vuole e la scuola, ma poi ci vuole anche esperienza. Quindi praticamente stiamo introducendo una sorta di praticantato, come ad esempio esiste per i legali, esiste anche per i giornalisti, per determinate categorie, cioè bisogna avere una, introdurrete, questa è l'intenzione vostra, introdurre una sorta di praticantato prima di riuscire ad avere il patentino di terzo livello? Praticantato e anche aggiornamento, perché tutte le altre categorie sono chiamate ad aggiornarsi. Per noi è diventato obbligatorio anche l'aggiornamento, è una direttiva UEFA, però è un'esigenza che si attivava. Aggiornamento su cosa in questo caso? Ma dipende, per esempio quest'anno l'aggiornamento l'abbiamo fatto sulla gestione del gruppo, che è una cosa oggi molto più difficile confrontare al passato. Cioè la gestione della dinamica di gruppo è comunque ormai una cosa, anche nel calcio è diventata una cosa. È strano, perché doveva essere proprio uno dei luoghi dove doveva arrivare in anticipo la gestione di un gruppo, poi tra le altre cose, no? Sì, ci si arriva, però i gruppi cambiano, le dinamiche di oggi sono dinamiche diverse da quelle che erano 15 anni fa all'interno di un gruppo. Sì. Anche perché in realtà anni fa la dinamica di gruppo c'era uno che decideva, esatto, gli altri dovevano obbedire, insomma, era molto semplice. No, era un pochino più semplice, in effetti non era proprio così, però tendenzialmente era un po' più questo. Diciamo che quelli che non ubbidivano poi andavano male, insomma, cioè rischiavano poi il cazziatone da parte loro, quelli che non ubbidivano. È meglio oggi, però un pochino più difficile. Mister, ci ringrazio, perché non stiamo facendo nessuna domanda su Baggio in questo caso, però no? Noi non l'abbiamo fatta questa domanda, ci deve dire bravi, grazie per questa volta. Grazie, bravi. Sì, no, ecco, così tanto per sapere in questo caso. Però dobbiamo fare assolutamente delle domande su Cassano per capire, insomma, questo ragazzo ci sta creando ancora una volta problemi? insomma, non è il primo caso, insomma, dove è andata, ha sempre avuto esperienze di questo genere. Io credo che a questo punto, insomma, sia anche chiara la responsabilità, insomma, non è che difendo la mia categoria, però insomma, credo che ci siano delle norme di comportamento. Ecco, ci dicono, tra l'altro, ci è arrivato anche il SMS al 349-238-6666 e ci dice appunto Maria per Ulivieri, e qual è il suo giudizio della tifoseria che trascina di più la propria squadra? Ma non lo so, io posso parlare di quelli che ho avuto io, che ho avuto io, probabilmente Sampdoria. Bravo, così, grande Renzaccio, Luca, grande. Luca, vai fuori. No, cioè, comportati siamo, bene. Siamo legati, ricordiamo che mister Ulivieri ha portato Francis in Italia, ricordiamo i grandi momenti. No, li ha portati Mantovani, no, io non avevo le risorse per portare. No, certo, però diciamolo, è stato lei a dargli quel nome, sì, vero? Va bene, grazie, è stato bello. No, non gliel'ha dato lei. No, lo trovò da sé, anzi, quando mi chiamò e mi disse, ho preso Tresor, io avevo capito lo stop del francese, Tresor, sì. Francese, pensi un po'. Ecco, quindi, ma Mantovani decideva lui, era un uomo, sì. che poi dopo, durante l'anno, lavorava l'allenatore tranquillamente, durante la campagna acquisti lo diceva. Faceva tutto lui. Dice, siccome i soldi ce l'ho io, li metto io, mi diverto io. L'anno si diverte. E si divertiva, insomma, in questo caso. Sì. Sostanzialmente aveva inventato il fantacalcio, si pigliava i giocatori che gli piacevano. Sì. E poi lei li doveva allenare. Ecco, era così. Già qualcosa. Comunque. Però prendeva giocatori bravi, Sì. Tipo? Beh, Francis, ad esempio. Poi? Ma tipo Francis, tipo Bresi, tipo Mancini, insomma, tipo Pellegrini, grandi calciatori. Sì. Ecco. Ma di solito lui, quando c'è un presidente che così decide i vari personaggi, i giocatori da prendere, cioè, ma non c'ha nessuno, con chi si consulta? Ma lui aveva una strategia di lungo respiro. Le figurine Panini. Io non capivo, non la sapevo, me la spiegò un giorno che andai a dire, mi dica qualcosa anche a me. Mi dice, guardi, gliela spiego, ma insomma, siccome lei viene di campagna, e pensavo l'avesse capito, ma non l'ha capita. Se io voglio vincere lo scudetto, so che non lo vincerò oggi, mi ci vorrà qualche anno per vincerlo, e quindi devo prendere tutti i giovani che ci sono in giro. Perché se non tolgo i giovani alla Juve, e i giovani sono quelli che fra 4-5 anni saranno giocatori affermati, non riuscirò a vincere. È la strada che poi lui ha fatto, ha vinto lo scudetto dopo 4-5 anni. Beh, però giovane non è sinonimo di campione, cioè bisogna anche scegliere i giovani. Noi siamo il nostro campionato. Ma aveva preso giovani e giovani bravi, poi dopo arrivò Bialli, arrivò grandi calciatori. Perché Icardi è un giovane bravo, Icardi. Sì, direi di sì. Venduto, infatti. Subito venduto, cioè, quindi mica sta lì, mica. Ecco, perché adesso poi il problema è che i giovani bravi, un po' tutti giocano su questo piano, cioè vengono comprati immediatamente da squadre forti, proprio per lavorare su questo piano, perché non hanno più soldi anche per investire su i top player, tra virgolette, no? Il Milan sta, per esempio, lavorando, secondo me, molto bene. Il Milan sta costruendo la squadra del futuro, e d'altra parte quando una società arriva come lo scorso anno con tanti giocatori che sono arrivati al limite, c'erano tanti che non potevano, obiettivamente aveva dato tantissimo sia per il Milan che per la nazionale, e quando arrivi a questo punto che hai bisogno di un grande ricambio, hai bisogno anche di una grande ricostruzione, ecco. Senta, allora, Cassano ha già fatto la sua ultima cassanata, secondo lei? Ma a me viene da pensare che ha torto. Stiamo parlando di un grande calciatore, però che ne capita troppe di queste cose, quindi voglio dire, una volta con l'allenatore, un'altra volta col presidente, mi riferisco alla Sampdoria, insomma, quella è stata in certe manifestazioni sbaglia, credo che lo sappia anche lui. Ma io mi domando e dico, come ha fatto a non essere eletto? Lucido nelle sue teorie, nel linguaggio presente, un po' bioccante, però forse è il comizio che no, è perché non lui regge il Senato, quindi anziani, hai capito? Quindi giustamente un pochettino più. Sì, un po' così, insomma, quello che è per certi versi, ma però ci ha dato tante. Ci ha illuminato, cioè questa cosa un po' gavetta, comunque ricordo, non gavettoni, perché sono per i tuoi soprattutto inchiodato su quell'elemento che lascia un po'. Non di ghiaccio. quindi gavetta, intendo dire. No, la gavetta, quella che dovrebbe fare anche esatto. Il Amaccione. A prescindere dai risultati, non voglio entrare nemmeno. Sei polemico. Non voglio entrare nemmeno nel risultato. Dico soltanto un po' di gavetta che al buon Stramaccioni non farebbe male nel frattempo. Come non fa male a noi, sì, ma soprattutto a Radio 24. A Radio 24, la pubblicità che sta arrivando. Dai e vai. Oggi parliamo a voi cultori dell'ultimo minuto, voi che entrate nel supermercato un minuto prima che chiuda, o al cinema un minuto prima che inizi il film, ma se proprio all'ultimo minuto dovete cercare qualcosa, beh, è il momento di 89 24 24, per cercare senza smettere di fare. Info e costi 89 24 24.it. Dai e vai, non è solo calcio. Ci state massacrando con la Formula 1, quindi non vedo l'ora che parta. Watch this! Non vedo l'ora che parta, ecco, vi ricordate, cari ascoltatori, ti ricordi, sì, Luca, che momenti terribili abbiamo attraversato? Della Sky... Formula 1 o Conte che ne parla? No, te lo stavo dicendo. Scusa. Sky che ci ha martoriato sì, quelli lì. In maniera assolutamente incredibile con questa storia della Formula 1. Tra l'altro continuerà a martoriarci perché non è ancora finita. Non oso immaginare cosa succederà la settimana di Monte Carlo, perché cioè, quello è il top dei top. Siamo proprio al delirio. Monte Carlo e poi a settembre il Gran Premio d'Italia. No, perché poi lì tra l'altro sarà interessante quando ci saranno tutte e due, cioè ci sarà Sky e poi andrà in diretta anche sulla Rai, quindi saranno tutte e due che ci martirizzeranno. Anche la Rai lo sta già facendo un po'. Sì, un pochettino. Vabbè, comunque torniamo a noi, torniamo soprattutto a quando abbiamo discusso di queste cose tempo fa, no? Quando eravamo ancora giovani. Dopo il primo Gran Premio, della stagione, ne abbiamo parlato con uno che ne capisce, non di Formula 1, ma di televisione alla Formula 1. Anche lui si è sentito un po' così. Sì, esatto. Riceveva miliardi di email. Antonio Di Pollina della Repubblica. Sì, proprio lui, esattamente. E con lui abbiamo cominciato a ragionare anche sul linguaggio sportivo. Non soltanto quello della Formula 1, su un po' su tutti gli altri anche linguaggi, tutti quelli che, vabbè, è inutile che ve la raccontiamo, ascoltatela, no? Antonio Di Pollina, critico della TV del giornale Repubblica, pronto? Quasi costretto, perché un po' ti interessa? Un po' ti interessa ancora? Sì, lo sport. Lo sport fondamentalmente sì. Ecco. È un'osi, tutto il resto che si fa sempre un po' di fatica in più. Però quindi... poi succedono appunto cose come quelle che avete arrivato voi. A me Conte non sta molto simpatico di suo, ma da ieri 10.000 punti in più. Mamma mia, ha detto quello che pensavano e si sono detti tutti a cena da settimane, no? Sì. Il re è nudo. Sì. Cose di sfoghi assoluti. Cioè... in mezza frase che... Ecco, diciamolo, Antonio Di Pollina, cioè, qui il problema è che una frase di questo genere può mandare in crisi interi settori del marketing e soprattutto dei settori di lancio della pianificazione pubblicitaria di canali interi, perché adesso c'è il canale Sky, sì, no, dedicato alla Formula 1. Insomma, adesso si faranno tutte le domande, ma dov'è che abbiamo esagerato? Perché? No? Cose di questo genere, no? Oppure perché Conte ce l'ha con noi, se ce l'avrà per qualche altro motivo e allora ne ha approfittato di quello. Soffrono di un po' di complesso di persecuzione su queste cose i ragazzi di Sky, che peraltro però a un certo punto poi stamattina sono dovuti partire davvero oltre nei giorni scorsi e la loro figura l'hanno fatta, per carità. Però già cominciamo con questo aspetto, secondo te hanno esagerato nella comunicazione? No, ma scherzi, è stato esagerato, non rende l'idea. Allora la dico in un altro modo. Hanno tritato con la comunicazione del lancio. Hanno tritato, ma per vostra fortuna o per fortuna degli ascoltatori, dei telespettatori, di chi segue in maniera normale lo sport, non sono sempre alle prese con il modo in cui Sky viene spesso a sottolineare quello che fa, soprattutto in occasioni di questo genere. Io che me le sorbisco tutte, anche con mail, cose, comunicati e tutto quanto, è una cosa torrenziale che non... Ah, perché cioè, oltre alla televisione hanno iniziato a smarronare pure sulle mail? No, ma scherzate davvero, cioè, è un continuo di cose. Stamattina alle 5 io... ti ha telefonato a casa? No, avevo l'impegno in quel momento, ma poi ho trovato molte mail delle 5 che davano conto delle dichiarazioni pre-partenza di Massa e cose di questo. Quindi ti davano già le interviste, cioè ti aggiornavano sulle interviste, le dichiarazioni importanti. Assolutamente, per carità, roba sontuosa per Teresi, ma che rientra nel discorso che abbiamo fatto prima. I comunicati stampa e le mail sulla sigla fatta dai Negramaro, voi non l'avete vista? No, ti ringraziamo. Non ce la mandare comunque, ti ringraziamo. No, ti ringraziamo. A me interessa, dai e vai, che ho c'ho la Radio 24, mandaci la mail. Lo faccio assolutamente. Ecco, la cosa che volevamo capire però a questo punto, vabbè, allora loro hanno esagerato dentro, però qui c'è sempre un po' il rischio, perché la cosa che ci interessava non era soltanto il lancio della Formula 1. Il lancio della Formula 1 è l'ultimo arrivato. Loro hanno fatto un lavoro egregio, per esempio sulle Olimpiadi di Londra, tutti hanno osannato, ma forse c'è anche, potremmo poi approfondirlo in un altro momento, però diciamo hanno osannato questo arrivo di una televisione un po' dinamica anche rispetto a un evento così storico come quello delle Olimpiadi, molto difficile da riprendere. Le Olimpiadi, come tu mi insegni, sono sempre state un terreno di sperimentazione della comunicazione televisiva, giusto? Sì, questo è meno male, è no, vero, non volevo. No, ecco, però la cosa che ci turba è questa cosa qua, che loro hanno lanciato come una grande innovazione. Allora, molti di noi stamattina alle 7, io per esempio, no, io mi sono svegliato stamattina alle 7, sono andato davanti al televisore, ho acceso il televisore e poi, come mi accade spesso nella Formula 1, dopo 5 minuti ero di nuovo abbioccato. E mi sono svegliato poi tardi. Con lo spumante che ma non è colpa di Sky, lo dico già subito, è colpa della Formula 1. Io mi addormento. Quella roba lì mi addormento. Però è tu che invece sei stato sveglio, immagino, giusto? Assolutamente sì, come negartelo? Ecco. Oppure come potreste smentirmi voi se vi dico che sono stato sveglio? Sì, io lo dico. Facciamo finta che, insomma. Insomma. No, diciamo anche che hanno dato due sane repliche intere, anche con tutti gli annessi e connessi, i mosaici, tutto nella tarda mattinata, e quindi... peraltro, quindi sono andati in onda tre volte prima della replica della Rai, che è andata invece nel primo pomeriggio. Okay. Che novità ci sono? Ecco, diciamolo un po' seriamente adesso, dopo aver dato tutti gli altri frizzi del caso. È assolutamente chiaro che per gli impallinati di Formula 1 è una sorta di festa vera, il famoso mosaico su cui puoi andare con gli schermi e scegliere inquadrature e cose di questo genere. Io per un po' stamattina me lo sono anche goduto, perché per esempio c'è una schermata che si chiama, mi pare, Race Control, che è divisa in quattro e hai la corsa, la soggettiva di Alonso, la schermata dei tempi, quella che appare sui monitor, quelli di servizio, con la, e anche la cosa della pista con tipo videogioco con le macchinine che vanno, sì, e tutto quanto. Il disegno della pista. Esattamente, francamente era un... Una goduria, una goduria. Ecco, magari ti addormenti un po' dopo, ecco. Sì. Riferito al discorso di prima, oppure devo dire che io per un po' sono anche stato sulla schermata della soggettiva, mi viene soggettiva, non mi viene il termine camera a cargo, come si chiama, camera a cargo. Del leader della classifica, escludendo l'audio del telecronista, ma solo con lo spernacchiamento del motore sotto. Cioè, ti sei sentito gli effetti sonori e basta? Ti godevi nel sentire la macchina? Io per un po' sono stato lì in maniera assolutamente ipnotica a quel punto, per raccontarlo un giorno ai nipoti, diciamo, L'ho fatto per alcuni minuti per vedere l'effetto. Ecco, breve nel racconto, perché poi si addormentano di nuovo anche loro a quel punto. Quindi... Ma metti che ci sia bisogno di addormentarli. Esatto. Questo invece mi sembra molto interessante. Tra l'altro, se poi fai i rumori di robe lì, diventa fantastico. Insomma. Ecco, l'impressione però è invece che la telecronaca non sia così innovativa rispetto a quella precedente. No, anche perché francamente non saprei cosa, se non caricare di enfasi a sproposito, francamente non saprei immaginarmi in che modo una corsa di quel genere. Peraltro mi pare che stia succedendo che ci siano un po' più di sorpassi che in passato, e allora questo può portare a più vivacità complessiva, però direi che da un certo standard è abbastanza difficile allontanarsi. Una cosa che ci dimentichiamo un po' tutti è che alcuni anni fa Sky fece i mondiali di Formula 1, mi pare per un paio di stagioni. Cosa succedeva però? Che erano tutti in contemporanea con la Rai e quindi non c'era il valore aggiunto. Lo abbandonarono abbastanza presto. La vera novità della cosa è che ci sono le esclusive della diretta di molti gran premi, tipo stamattina, tipo qualcuno dei prossimi, poi si andrà in contemporanea con la Rai e diciamo che il giorno vero in cui tutto questo avrà un senso e partirà per quanto riguarda Sky è il Gran Premio di Monte Carlo, che sarà il primo Gran Premio in onda alle 15 trasmesso esclusivamente da Sky. Ecco, quello sarà un po' il giorno in cui cioè io non oso immaginare se cosa dirà Conte il giorno prima. Certo, sarà disperato in quel caso lì. No. Ecco, la cosa forse interessante è capire, e si capirà probabilmente più in là, se la nascita o l'arrivo della Formula 1 su Sky in qualche modo ha incrementato ovviamente gli abbonamenti in questo passaggio, e questo sarà una cosa molto molto curiosa e molto interessante per certi versi, anche perché spesso si pensa sempre che poi dopo, per quelli che hanno Sky, penso che tutta l'Italia stia guardando Sky e stia guardando la partita, mentre invece non è così, giusto? No, sono pochi. Infatti rimane comunque una percentuale soprattutto riservata ai grandissimi avvenimenti. Poi è chiaro che quando c'è Barcellona-Milan che è solo in pay, se la dividono un po' con Mediaset Premium, ma vanno su ascolti assolutamente rilevanti, tipo anche il 7%, tenendo conto che stiamo parlando di un evento tipo Barcellona-Milan che se fosse andato in chiaro, in esclusiva, avrebbe fatto il 40, il 35. Ecco, quindi i margini sono quelli. Dopodiché è assolutamente chiaro che loro sugli abbonamenti, nella maniera tradizionale, hanno cominciato a soffrire. Sento da loro voci di flebile ottimismo per una certa qua ripresa che loro ricollegano appunto alla Formula 1. Io sono ancora abbastanza convinto che bisogna aspettare Monte Carlo, come detto prima, perché quello sarà il vero giorno in cui i 10 milioni che di solito guardavano Monte il Gran Premio di Formula 1 al pomeriggio da Monte Carlo, per di più nell'incantevole scenario e così via, molti per esempio si renderanno conto solo quel giorno lì che gli manca. Momento, la Rai non lo sta dando e lo sta dando Sky. Certo. Senti, cioè, sono però delle note anche positive rispetto a questo, nel senso che qui bisogna fare veramente i complimenti a quelli che hanno fatto il lancio, cioè non hanno più usato la musica del gladiatore per oppure momenti di gloria o momenti di gloria, e questo ci riempie un po' di gioia, o qualcosa di simile alla musica del gladiatore, che è un po' la caratteristica. I giocatori di calcio, la comunicazione che c'è su Sky sui giocatori di calcio è che vanno sempre in battaglia, no? su questo passaggio. Al mio segnale scatenate. Esatto, e poi soprattutto probabilmente la Formula 1 non, anche se ce n'è forse bisogno, non useranno mai attributi, che è uno degli aspetti invece che molto spesso viene citato nel mondo del calcio, e questo viene sostanzialmente segnalato. No, mi pare che questo è già un vantaggio, mi pare, no? Per certi sì, anche perché gli attributi da seduti nella monoposto non è che si riesca facilmente a usarli? A mettere in gioco. Ecco, sì, ma sì. Hai ragione anche su questo. Direi che dobbiamo aspettare appunto che arrivi un minimo di routine quasi per vedere quale sarà la resa complessiva. Dopodiché una cosa che non abbiamo detto, stiamo parlando di uno sport che in Italia, se la Ferrari va ha un senso, se non va ne ha uno completamente diverso, quindi anche loro sono appesi appunto agli attributi, vorrei dire, di Alonso, per vedere come funzioneranno. Ecco, noi ti ringraziamo moltissimo, io passerei tutta la serata con Antonio Di Poli, ma so che in questo momento puoi andare a vedere la replica, lo so, tra la Formula 1 e questo ci riempie per il gioco. Senti Antonio, ti è appena arrivata una mail in cui ti dà la classifica finale del Gran Premio, valla a vedere perché è importante e soprattutto la sigla del nuovo campionato. Grazie Antonio Di Pollina, grazie, a presto. Ciao. A risentirci. E vabbè, insomma, qualcosa ci ha un po' illuminato. Sì. È un tema che è infinito, perché dovremmo parlarne a lungo. Sì, però anche qua con la Formula 1 18, basta. Cioè, voglio dire, non li possono mettere in silenziatore? Sì, a Pasqua. Pensa alla Formula 1 in silenzio. Sì, che roba. Che bello. Sai che roba? No, però voglio dire, ne parleremo quando riusciremo, esatto. No? Di sport e linguaggi sportivi. Ah. Per il momento non riusciamo a parlarne. Sì, quindi... Anche perché adesso cosa c'è? Sì. No, adesso tra l'altro c'è il traffico. Esatto. Sì, però non adesso devi lanciarlo, tra un po' devi lanciarlo. No. Vuoi lanciare adesso il traffico? No, il traffico subito, no. Ecco. Non puoi lanciare adesso il traffico, perché adesso sta arrivando ancora le macchine. No, dicevamo che linguaggio sportivo, linguaggio che muta, linguaggio che ha tante cose da dire, ma soprattutto diceva sempre le stesse cose. Quindi in realtà, siccome il calcio è sempre la stessa cosa, se pensa alla Formula 1, è sempre lo stesso giro, l'unica cosa che cambia sono le parole e quindi il linguaggio, la comunicazione di tutto questo. Traffico. Dai e vai. Il consorzio tutela vini oltre Po Pavese vi presenta Strade in diretta. Buonasera, sull'Autosole ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Traffico scorrevole sul resto della rete e sulle principali strade. Attenzione sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo, c'è un veicolo fermo in panne tra Cassole Auricola e Vicovaro-Mandela in direzione di Roma. Alle 22 sono tornati a circolare i mezzi pesanti sulle autostrade, nuovo stop domani dalle 8 alle 22 e poi martedì mattina dalle 8 alle 14. Per quanto riguarda il meteo, piogge sparse sulle regioni centrali al nord-est, vento forte sul versante tirrenico tra Toscana, Lazio e Abruzzo e tra Molise e Puglia, in particolare lungo la 14 tra Termoli e Taranto. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora circa. Dai e vai, non è solo calcio. Non c'è nessuno in giro praticamente, cioè, no, c'è, oggi no, perché poi domani è Pasquetta, voglio dire, domani tra l'altro l'abbiamo appena sentito, c'è poca gente, poco traffico, voglio dire, domani sono tornati tutti in vacanza. Peccato della pioggia, no? Sta per arrivare copiosa in tutta Italia. Ma poi torna il sereno, non ti preoccupare, torna il sereno. Prima o poi torna il sereno. Mi dispiace per tutti quelli che sono in vacanza, arriverà questa grandinata, proprio lì dove siete voi in questo momento e ci state ascoltando, però peccato. Per non parlare la bufera di neve, il ghiaccio sulle panchine come a Trieste qualche giorno fa, cioè delle cose. Senti, pazzesche. Però non cambiamo discorso. No, non cambiamo discorso. Dobbiamo lanciare il nostro libro, perché dai e vai e sì sport, dai e vai e sì inutile trasmissione, dai e vai cazzeggio a Radio 24 non si dice cazzeggio no. E l'ha detto Luca Cattuso, esatto. Caso mai voleste fare la spia, fatela, però è stato lui a dirlo. No, dai e vai è anche cultura, quindi non è solo calcio. Ma non mi avevi avvisato sta roba? Non te l'ho detto. Guarda che è anche cultura. Cioè, ci sono degli. Guarda, non vedi tutti i libri. Tutte queste paroline una dietro l'altra formano un libro. Era per tenere sull'iPad. E in questo caso non è solo calcio, parla di calcio criminale. Quindi non solo calcio, ma anche di altre cose. Ne parliamo con chi? Con l'autore del libro, Pierpaolo Romani. E lui. Sua sorella non sarebbe inutile, con l'autore. Ma secondo me l'ha aiutata per la correzione delle bozze, la sorella di Romani. Sicuramente gli faceva l'ovetto quando lui era un po' depresso. Servono le sorelle nella letteratura. Come fai a non essere depresso mentre tu hai un pallone lì vicino e stai scrivendo un libro che si chiama Calcio Criminale? E parliamo con lui, Pierpaolo Romano. Eccomi qua, buonasera. Come va? Tutto bene, grazie. Voi? Abbastanza. Possiamo seguire insieme questo Sampdoria Milan, cioè che sta per finire, no? Magari, perché lei è tifoso, spero. Sì, certo. No, anche perché un libro sul calcio, cioè la parte più noiosa, cioè, è stata una rottura assolutamente incredibile. Che cosa ti fa, Romani? Tipo Inter. Ah, ok. Quindi... Vabbè, ciao. Il libro è bello, però. Parlane tu. Parlerà Luca Gattuso con la sua voce, che sicuramente convincerà migliaia e migliaia di persone. In questo momento sta tifando Sampdoria, giusto? Sta tifando Sampdoria in questo momento? No, io sono tifoso in generale, quindi mi piace che vincano i più bravi. Quindi la Sampdoria stasera. Okay. Qualche sospetto. Okay. Ok, allora torniamo di nuovo. Allora presento anch'io il libro, ma che in qualche modo. Però intanto questo momento è finita. No, non ancora. Mancano 3 minuti alla fine di questa partita. La Sampdoria resiste eroicamente. No, che resiste? Il Milan che resiste. La Sampdoria no, sta in questo facendo... momento, però, è in difesa. Cioè, no, era... Ma no, dai. No, Sampdoria. Era il Milan che attaccava. Calcio d'angolo alla Sampdoria. Siamo a 45 minuti e 30 secondi. In questo momento sempre 0-0. No, sul libro di Pierpaolo Romani. Sì. Cioè, io ho letto più o meno un'intestazione che dice: partite truccate, campionati falsati, gestione delle scommesse lecite e illecite, riciclaggio di denaro sporco, controllo delle scuole calcio dei vivai delle squadre, bagarinaggio, estorsioni. Cioè, Romani, ma ci sarà qualcosa da salvare sto calcio o no? Sì, assolutamente. Io ho raccontato un pezzo del calcio che è il calcio criminale, che è fatto. È brutto però. È molto brutto, però è un problema che non dobbiamo nasconderci se amiamo il calcio pulito e onesto, quello fatto di passione, di divertimento. Ed è un fattore criminale che noi dobbiamo leggere e affrontare in base a questa natura. È un sistema, torno a dire, criminale e sportivo, dove non solo ci sono dei mafiosi, dei delinquenti di alto livello di mezzo, ma ci sono anche degli sportivi disonesti e ci sono anche i cosiddetti colletti bianchi, quelli che se ne stanno apparentemente di fuori dal calcio, ma che in realtà sono muovere un sacco di denaro in tutte le varie parti del mondo, e c'è anche un pezzo della tifoseria che fa parte di questo sistema criminale. Ecco, Pierpaolo, posso darti del tu, no? Come no? No, non si sa mai, magari. No, vai tranquillo. No, ma adesso che mi ricordo che sei triste. No, torniamo. dottor Romani. No, scherzavo. Pierpaolo, no, la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è questa. Cioè, ho guardato il libro, no? E mi è sembrato non molto spesso. Cioè, nel senso che di fronte a tutte quante le cose che sono accadute, no? Non è così corposo come dovrebbe essere, no? Un libro di questo genere, nel senso che c'è una scansione temporale, quali sono stati i criteri per scegliere ovviamente e segnalare la parte criminale del calcio? Beh, guardi, innanzitutto io racconto una cosa che pochi altri hanno raccontato, cioè racconto il rapporto tra il mondo del calcio e delle mafie italiane. E facendo un'analisi tra la mafia siciliana, la 'Ndrangheta calabrese, la Camorra campana e la Sacra Corona Unita pugliese. E poi ho fatto tutto un pezzo sulla scommessopoli italiana, l'ultima, raccontando le indagini di Cremona, di Bari e di Napoli. Ah, l'ultima, quindi post 2006. Sta sulla recente notizia, insomma. Il mio libro si chiude, l'ho aggiornato il 30 maggio del 2012. E poi, ecco, mi sono permesso di raccontare anche il rapporto tra il calcio e le mafie al di fuori del campo, perché purtroppo abbiamo anche calciatori importanti che vengono fotografati, filmati anche dalle forze dell'ordine mentre sono in compagnia di figli o parenti di mafiosi, non occasionalmente ma in più occasioni, dando l'idea di frequentazioni abitudinari e assidue. Intanto, ecco, posso dire questa cosa? Pastetta, sì. Ma che pastetta? No, vabbè, scherzavo, vabbè, dai, cominciamo per Malosi, ma della Sampdoria. Comunque 0-0 tra Sampdoria e Milan, notiziona, sì, questa, notiziona. Ecco, scusa no. Quindi tu stavi dicendo le mafie, stavo, no? Dicendo che il mio libro racconta soprattutto il rapporto tra il mondo delle mafie italiane e del calcio, ho fatto anche una panoramica internazionale, e però ecco, questo è un pezzo del calcio. Io naturalmente ho dovuto fare una sintesi per il mio lettore, per i miei lettori, ci sarebbe un'enciclopedia, certo. Probabile che dopo questo libro ce ne sarà anche un altro, credo. Però ecco, l'ultimo capitolo del mio libro racconta solo storie belle, positive, importanti, che testimoniano che un calcio pulito e onesto può esistere, ed è questo che va difeso e diffuso. Ecco, ce ne puoi raccontare una, perché dopo Sampdoria Milan, cioè, se mi dai una bella notizia che tu hai citato nel libro. Sì, sì, assolutamente. Una la sapete tutti, è la presenza della nazionale di Prandelli a Rizzico, sì. In quel terreno confiscato, mafioso, molto importante in Calabria. L'altra è un gemellaggio nato tra due scuole calcio, quella del Desio Calcio, della Milano-Brianza, con il Marina di Gioiosa Ionica in Calabria. Hanno fatto un progetto di educazione alla legalità partendo dal calcio e gemellando i due comuni e le due squadre di calcio. Senti, di fronte al calcio scommesse, anche alle ultime parti, io c'ho un bar che è il mio test personale, no? C'è un po', come dire, un po' di scoramento, nel senso che la sensazione è che il calcio scommesse sia una cosa incontrollabile, perché in realtà il punto centrale è che è a Hong Kong, dove si va poi Singapore, cioè comunque dall'altra parte in Asia, si va lontano, no? Cioè, voglio dire, quindi non riusciamo neanche ad avere sotto mano, no, la situazione, mentre invece i trucchi, no, delle piccole delle squadre che fanno il pareggio, queste cose qua va bene, ma il calcio scommesse è una cosa che esula dalla capacità di riuscire a comprendere, no? Io ho avuto occasione di sentire tipo cose un po' strane, tipo ad esempio si scommette tantissimo a Singapore su delle squadre, sulle partite di Serie B della Svizzera, no? Assolutamente insignificanti, no, e quindi questa sensazione di impotenza è talmente enorme in questa fase, e non è vero invece, tu ci dici che non è vero. No, io credo che l'impotenza è lo stesso discorso. Io studio da più di 20 anni le mafie italiane, no? Si pensa che il mondo delle mafie sia un mondo imbattibile, quando invece questo non è assolutamente vero. Ci vuole una capacità di conoscenza, di analisi e una volontà politica di affrontare questo problema. Ora, a Singapore ha una legislazione dove vige un principio terrificante, quello del pecunia non olet, il denaro non ha odore, basta che arrivi, e non ci sono limiti alle scommesse, si può scommettere anonimamente, eccetera, eccetera. Poi certo, lì si gioca anche, pensate, sulle squadre, sulle partite delle squadre primavere dei nostri campionati, e si mandano degli emissari a vedere queste partite, dove naturalmente non c'è la grande stampa, non ci sono i riflettori puntati, quindi non c'è molta attenzione pubblica, e dove c'è distrazione per colpa o per dolo, voi sapete che dove c'è una situazione di disattenzione, di opacità, lì è terreno di coltura per il crimine organizzato e per le mafie. Ecco, allora, questo problema della criminalità organizzata e del suo controllo e del suo inserimento nel mondo delle scommesse è un problema non solo italiano, è un problema ormai mondiale, che l'uso di internet per favorire le scommesse ha amplificato a dismisura. A dismisura. Qui la questione è molto semplice: bisogna che a livello mondiale si adottino delle norme penali minime ma comuni, per cui se tu commetti un reato in Italia, a Singapore, piuttosto che negli Stati Uniti, la tua sanzione è sempre quella, ed è molto, deve essere secondo me molto, molto alta, molto forte. Naturalmente per fare questo ci vorrà del tempo, perché poi, ecco, ogni Stato è gelosissimo del proprio ordinamento e della propria sovranità. Certo. E poi naturalmente, ecco, torno a dire, ci sono degli Stati che tengono in piedi le loro economie con quantità consistenti di denaro sporco. Ecco Romani, ma tu vai allo stadio ogni tanto? Ci vado pochissimo. Ma l'ultima volta sei andato, per dire? Sono andato qualche tempo fa, ma diverso tempo fa. E quando ti siedi in tribuna a vedere una partita, quanto ci credi a quello che sta succedendo davanti ai tuoi occhi? Beh, dopo che ho fatto il libro, effettivamente ho un approccio molto diverso, soprattutto quando magari sento per radio, ecco, perché ascolto spesso la radio più che guardare la TV. Quindi senti su Radio 24 un esperto che parla del calcio scommesse, queste cose qua, terribile. No, ma è vero, perché guardo internet se voglio informarmi, notiziari, oppure ascolto la radio. E devo dire che dopo che ho fatto il libro, ecco, quando vedo certi risultati, anche con tanti gol e così via, o certe partite particolari, non lo guardo più come una volta, e mi viene sempre naturalmente da andare a vedere anche i calendari dei campionati, perché oggettivamente, ecco, se vorrei dire anche questo, se il mondo del calcio scommesse è forte è perché c'è gente che sa fare il suo mestiere lì, e quindi sa benissimo classifiche dei calciatori e robe varie, e sa anche dove ci sono uomini in campo, a bordo campo, in tribuna, su cui poter contare per poi mettere in atto dei progetti illeciti. Cioè, c'è gente che mastica, insomma, in quell'ambiente, mastica di calcio, insomma. Come no? Non solo, anche di finanza, certo, di tecnologia, sono multidisciplinari, questa è la loro forza. E infatti abbiamo soltanto un minuto per chiudere tutta quanta la trasmissione. Ricordiamo e salutiamo ovviamente Roberto Scaltritti, che ci ha guidato al mixer, Luca Cancellara che è stato in redazione. qui devo salutare anche te. Sì. Luca Gattuso che ha condotto. Io devo salutare anche te, Sergio Ferrentino. Grazie, noi diciamo anche che noi saremo sempre qua domenica prossima e vi ricordiamo anche questo piccolo particolare, questo che state ascoltando, non è un nostro sfizio, non è che siamo di colpo, come dire, abbiamo preso un'involuzione emotiva. Dei fan dei Pooh, no? E musicale, no, assolutamente, i Pooh rimarranno grandi nel loro splendore, però noi utilizziamo questo dammi un minuto, vogliamo da voi il minuto della vostra gara, il minuto della vostra competizione, il minuto che in qualche modo possa illuminare anche questa trasmissione. Nel frattempo vi beccate anche un po' di sigla. Ciao! Benvenuto nel servizio clienti Quixa. Come si vince lo chef? Allora, salva un preventivo auto, può vincere 5.000 euro di spesa. E lo chef? Sì, che cucina da lei per 6 persone. Ma io sono sola. Com'è questo chef? Sa cucinare. Salva un preventivo auto gratuito su quixa.it. Puoi vincere 5.000 euro di spesa e un personal chef. Quixa, diretta, personale, AXA. Concorso valido dal 18.3 al 14.4 2013. Regolamento su quixa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Caro, hai tu la busta dell'INPS? Quale? Quella col CUD? No, no, non è ancora arrivata. Come non è ancora arrivata? Mi spieghi adesso come facciamo col 730? A partire da quest'anno l'INPS non invierà più il CUD direttamente a casa. Ma non preoccuparti, vieni al CAF CISL. Penseremo noi a stampare il tuo CUD e a compilare il tuo 730. E meno male, se no chi la sente mia moglie? Ti ho sentito, sai? CAF CISL, risolviamo insieme. Chi ha detto che la passione si può solo sentire? Radio24.it, il nuovo sito di Radio 24 che accende il web con l'attualità, la politica, le curiosità e le notizie in tempo reale. Per un'informazione che va oltre la radio. Radio24.it. La passione